Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. E allora oggi continuiamo ad affrontare in qualche maniera le tematiche economiche legate a questa tragedia che si sta consumando in Abruzzo. Riccardo Sabatini sulle Sole 24 Ore di questa mattina: quando si verifica un terremoto in Italia è inutile attendere l'arrivo di un assicuratore. Quell'aiuto sotto forma di indennizzo per la perdita di una casa, di una macchina o in caso di infortunio, nella gran parte dei casi non ci sarà. È assente dalle clausole dei contratti delle polizze collocate dalle compagnie. Gli stessi assicurati non mostrano grande sensibilità alla copertura di simili rischi e addirittura c'è anche un'esclusione per legge. L'esclusione più conosciuta è quella che riguarda le abitazioni. Quando i danni sono causati da catastrofi naturali, la copertura è esclusa. Da sempre gli assicuratori sostengono che per un loro intervento sarebbe necessario un accordo con lo Stato, che per le somme in gioco in eventi sismici di particolare rilevanza lo Stato dovrebbe assumere il ruolo di assicuratore di ultima istanza. Vi dicevo così il collega Riccardo Sabatini sulle Sole 24 Ore. Il tema, lo comprendete bene, è delicatissimo. Abbiamo scoperto che sul mercato ci sono formule assicurative che in qualche maniera tendono a coprire il rischio sismico. Le più note sono le polizze all risk, quindi a tutto campo, insomma 360 gradi, anche prodotti specifici contro il terremoto. Ma ci chiediamo fino a che punto coprono, qual è il livello del dibattito intorno a questo argomento. Questa mattina abbiamo sentito alcuni esperti del settore. Ringrazio e saluto Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Broker di Assicurazione e Riassicurazione. Paparella, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Una grande compagnia di assicurazione, il dottor Federico Corradini, vice direttore generale area danni del gruppo Unipol, gruppo finanziario. Corradini, benvenuto anche a lei. Buongiorno anche a voi, grazie di averci telefonato. E sentiamo anche l'Associazione dei consumatori come considerano l'argomento. Ivano Daelli, coordinatore studi economici di Altro Consumo, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. 800 24 00 24, il numero verde per gli interventi degli ascoltatori, 349 238 6666, il numero invece per i messaggi. Abbiamo un po' meno tempo del solito, quindi per quello che riguarda la borsa sventagliata generale, rialzo di tutti gli indici stamattina, un po' più sottotono rispetto ad una partenza che era stata più brillante. Parigi più 0,5, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,09%, anzi Londra vedo che si sta indebolendo, Milano guadagna lo 0,7%. Abbiamo acquisti stamattina abbastanza decisi su Bulgari, Pirelli e Autogrill, che sono in rialzo di oltre 3 punti. Pensate che Autogrill da metà marzo guadagna qualcosa come il 55%, meno 2,81% per Telecom Italia, sulla scia della debolezza di tutte le telecom europee. Davide Campari meno 0,8%, Finmeccanica meno 0,6%, A2A meno 0,6%. In risalita il petrolio, è di nuovo sui $51 al barile, l'euro sul dollaro stamattina quota 1,32,81. Lasciamo subito la borsa, andiamo immediatamente nel merito del tema di questa mattina. Parliamo di assicurazioni e, insomma, ovviamente alla luce della tragedia dell'Abruzzo, sentiamo un po' qual è il livello del dibattito intorno al tema dell'assicurazione per la nostra abitazione contro il sisma. Qualcuno ci aveva pensato. Una polizza anticalamità naturali obbligatoria era stata proposta senza successo dal secondo governo D'Alema, inserita poi dal governo Berlusconi nella bozza della finanziaria del 2005 e di nuovo dal governo Prodi in quella del 2007. Le proteste erano arrivate però da più parti, in prima linea le assicurazioni, ritenendo quello dei disastri naturali un rischio troppo oneroso per il sistema assicurativo, e sullo stesso fronte la proprietà immobiliare e le associazioni dei consumatori. In effetti i costi dei disastri naturali sono tali che perfino le risorse pubbliche sono spesso insufficienti a ricompensare le perdite economiche subite dai singoli. L'anno scorso è stato un anno record per quanto riguarda i costi, prima di tutto umani e poi economici, delle calamità naturali. Nel 2008 tifoni, alluvioni e terremoti hanno causato oltre 220.000 vittime e danni per almeno 200 miliardi di dollari. Ma i rischi a cui può essere esposta la nostra casa, oltre a quelli legati alle catastrofi naturali, sono molti. Eppure appena il 25% della popolazione italiana è in possesso di un'assicurazione sulla casa. Generalmente le garanzie base offerte da tutte le polizze sono quelle contro gli incendi, i furti, i danni a impianti domestici, lo scippo, la rapina e i danni provocati a terzi. Inoltre, le polizze assicurative cosiddette incendio assicurano normalmente anche gli eventi atmosferici, vento, bufere, trombe d'aria e grandine. Per quanto riguarda invece slavine, inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, non tutte le compagnie accettano il rischio, soprattutto, sembra un paradosso, se in quella zona il pericolo esiste. È invece obbligatoria, già inclusa nelle nostre bollette, una polizza contro i rischi derivanti dall'utilizzo del gas. Un'altra garanzia può essere infine prevista alla sottoscrizione del mutuo. In qualche caso la banca può pretendere che vengano stipulate delle polizze dedicate alla tutela dell'immobile o delle persone coinvolte. La banca non vanta alcuna titolarità sulle somme di un eventuale indennizzo, ma in forza del vincolo potrà imporre che vengano utilizzate per estinguere parzialmente il debito collegato. Insomma, il tema di una copertura assicurativa contro questi rischi che possa in qualche maniera essere obbligatoria è tornato prepotentemente alla ribalta della cronaca. Sentiamo un po' cosa ne pensano gli esperti del settore. Prima però vorrei farvi ascoltare anche la testimonianza di un'assicuratrice che ci chiama da un paese vicino al mio, Stefania da Recanati. Buongiorno. Buongiorno, guardi, io stavo in macchina, quindi stavo ascoltando quello che dicevate, l'argomento, e niente, volevo dire questo, che le persone mi chiedono di fare coperture contro il terremoto, anche perché qui nelle Marche, diciamo, noi abbiamo avuto un'esperienza non tanto positiva, insomma, qualche anno fa. Lo so, Stefania, io sono di Ancona, quindi conosco benissimo. Esattamente. E quindi chiaramente le persone sentono molto questa esigenza, però è altrettanto vero, io lo dico anche come diciamo facente parte dal punto di vista assicurativo di questo settore, che le compagnie assicurative credo abbiano anche molta difficoltà ad individuare edifici effettivamente a norma, perché secondo me se ci fossero delle normative applicabili, cioè che vengano applicate quindi per la costruzione di edifici a norma, allora una sorta di certificazione, ecco, in maniera tale che anche l'assicurazione può dire: bene, questo edificio ha tutte le caratteristiche per resistere a un evento particolare, quindi io posso assicurarlo. Poi è chiaro che se l'evento è veramente, diciamo, malgrado questa, diciamo, la cautela nella struttura, eccetera, comunque la casa è venuta giù lo stesso, allora lì l'evento, diciamo, effettivamente va coperto. Beh, certo, Stefania, quindi si pone evidentemente un problema di portata molto più ampia, perché se dobbiamo pensare anche ad una ricostituzione integrale, totale di tutto il nostro patrimonio edilizio, capisce bene che, però insomma, ha ragione anche lei. Di fatto noi abitiamo in paesi particolari, la struttura architettonica del nostro paese ha un determinato livello, ma anche ha determinate caratteristiche, ma così come anche il sottosuolo. Detto questo, Stefania, comunque lei ci conferma, in molti glielo chiedono, di fatto deve riconoscere che l'offerta assicurativa non c'è. Non c'è, ma non c'è dovuta anche a questa difficoltà. Anche a questo problema. Sì, perché non essendoci una normativa probabilmente chiara che tutela effettivamente questo problema, e anche la compagnia non assume rischi, cioè è chiaro che l'assicurazione non può assicurare un edificio che già di per sé è lesionato, ha dei problemi di struttura, no? Quindi ecco, la motivazione sostanzialmente è questa, non certo. È che l'assicurazione non vuole assicurare. Ecco. Stefania, la ringrazio, certo, la ringrazio molto per la sua testimonianza. Io credo che ovviamente poi anche le considerazioni di questo tipo saranno sicuramente oggetto della massima attenzione in un frangente delicato come questo. Allora cominciamo a sentire i nostri ospiti. Francesco Paparella, presidente dell'AIBA. Noi abbiamo fatto un po' la cronistoria di tutte le volte in cui in questi anni il tema è salito agli onori della cronaca, purtroppo in concomitanza sempre di situazioni drammatiche. Anche voi avevate fatto la vostra proposta già a partire dal 2000. Le chiedo però, prima di risalire a quel momento e alla tipologia di proposta che avevate fatto, perché è impossibile predisporre da parte del mondo assicurativo un'offerta adeguata di prodotti assicurativi contro il rischio sismico? Ci può fare proprio un punto preciso della situazione? Sì, ma direi che non è esatto dire che non è possibile predisporre degli strumenti assicurativi. Il problema è che questi strumenti assicurativi vengono richiesti solamente in quelle aree più esposte al rischio, venendo quindi meno il criterio dell'antiselezione che imporrebbe di assicurare questo rischio in un modo più allargato e non solamente dove esso è maggiore. Questo è il problema, e quindi non si riesce a creare una base di premi raccolti sufficientemente ampia per poter poi far fronte agli eventi dannosi. Questo è il concetto di fondo. E questo è il motivo per cui anche, per esempio, le proposte delle compagnie di assicurazione, perché il tema se lo pongono e come, e sono proposte che in qualche maniera individuano nello Stato come quella figura di riassicuratore di ultima istanza. Che cosa vorrebbe dire? Allora, quando noi ci occupammo di questo problema nell'ottobre del 2000, con un convegno a cui fu dato ampio spazio anche dal Sole 24 Ore e da tutta la stampa, noi verificammo che la capacità riassicurativa, io parlerò ancora in lire perché nel 2000 si parlava di lire, la capacità massima riassicurativa del mercato mondiale per far fronte in Italia a un evento del genere era fra i 7.000 e i 9.000 miliardi. Oltre questo non c'era capacità di sottoscrizione privata. Già allora c'erano delle proposte di legge che poi sono decadute, come voi avete correttamente ricordato, che creavano o presupponevano la creazione di una struttura pubblico-privata nella quale confluissero le compagnie di assicurazione come erogatori del servizio assicurativo, ma che prevedesse l'intervento dello Stato oltre una certa soglia di danno che evidentemente non poteva essere accollata ai privati. Ripeto, allora noi proponemmo che su tutte le operazioni di mutuo immobiliare, sia per prima casa che per ristrutturazione, eccetera, le banche pretendessero la copertura sui rischi catastrofali, quindi il terremoto, le alluvioni, le inondazioni, proprio per creare una base di raccolta premi ampia e assolutamente distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio e non solo sulle aree ad alto rischio. Questa proposta trovò interesse da parte dell'ABI, ma fu poi abbandonata perché in quel periodo, nel 2000, che qualcuno lo ricorderà, fine 2000, nacque il problema dell'anatocismo sugli interessi e quindi diciamo che il mondo bancario fu sconvolto da altre problematiche. E quindi ne abbiamo lasciati due in sospeso di problemi praticamente, si sono ritrovati... No, come sempre succede. Lasciamo stare questo aspetto. Purtroppo è anche vero che di questi problemi si parla solo, diciamo così, a caldo e poi dopo, passata l'emergenza, in qualche modo fatto fronte al disastro e al disagio, si accantona tutto. Questo perché? Perché dal mio punto di vista esiste anche una mentalità tipica del nostro paese che in qualche modo fa credere, fa ritenere che un evento catastrofale di questo tipo debba essere in qualche modo ristorato dalla parte pubblica e non debba essere lasciato all'assicurazione privata. E invece poi quando scopriamo, insomma, che le tragedie sono di portata così enorme come quella che si è consumata in Abruzzo negli ultimi giorni, lo Stato ovviamente potrà fare tanto, non potrà fare tutto, sarebbe stato estremamente necessario anche un concorso privato. Però insomma col senno di poi siamo sempre tutti molto bravi a commentare quello che gli altri avrebbero dovuto fare, adesso invece ci troviamo ad affrontare una situazione ben diversa, che comunque in qualche maniera dal punto di vista legislativo, vuoi al più presto, vuoi fra un anno, dovrà assolutamente essere presa in considerazione. Forse questa tragedia sarà il momento giusto per partire con serietà su una riflessione di questo tipo. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi dei nostri ascoltatori. Oggi stiamo un po' esplorando il tema delle assicurazioni legate al rischio sismico nel nostro paese, drammaticamente con l'emergenza in Abruzzo. Siamo tornati ad analizzare questo settore, siamo di nuovo tornati, come dire, a girare il coltello in una piaga di cui il nostro paese, il sistema assicurativo del nostro paese è ben consapevole. Non esiste un'offerta adeguata rispetto al rischio sismico che in Italia c'è. Le compagnie in realtà molti prodotti li propongono, ma bisogna capire che natura hanno. Allora sentiamo proprio le compagnie, che cosa fanno. Federico Corradini è vice direttore generale area danni del gruppo Unipol, gruppo finanziario. Allora, come siete organizzati su questo fronte? Le chiedo anche un commento rispetto a quello che ha sentito fino a questo momento. Sarebbe favorevole lei ad una forma assicurativa obbligatoria, magari proprio studiando l'opzione pubblico privato? Come possiamo guardare avanti con un po' di serenità sulla scorta di quanto ci insegna la tragedia dell'Aquila, dottor Corradini? Sì, buongiorno. Io in premessa devo dire che ho trovato molte assonanze con quanto ha affermato Francesco Paparella. In effetti noi abbiamo queste condizioni. Abbiamo prima di tutto, lo diceva l'articolo di di Sabatini, se il mercato assicurativo italiano dovesse farsi carico di questi presunti, ma tutti da verificare, 3 miliardi di euro di danni, probabilmente non ci sarebbero compagnie in grado di assorbire singolarmente un livello di danno di questo genere, a meno naturalmente di prezzi molto alti per poter assicurare questi tipi di rischio. Non c'è una mutualità tra i rischi, come diceva Paparella, vengono richiesti solo nelle zone sismiche e quindi in teoria il prezzo che noi dovremmo chiedere sarebbe un prezzo assolutamente inaffrontabile. Per la persona che vuole assicurarsi, sì, perché lei. Il concetto dell'assicurazione è quello anche della mutualità tra i rischi e tra le aree. Noi abbiamo in Italia zone sismiche e zone che sismiche lo sono molto meno. Però la diffusione di questo tipo di copertura potrebbe portare a un calmieramento del prezzo, a patto che però il riassicuratore al quale poi gli assicuratori si rivolgono per poter scaricare una parte del rischio ci desse condizioni anche lui economiche che fossero accettabili. Le faccio un esempio: i riassicuratori ci danno ogni anno un plafond massimo entro, sto parlando di cumulo dei rischi, entro il quale noi dobbiamo stare ad un certo determinato prezzo. Naturalmente questi plafond che ci vengono assegnati noi li destiniamo normalmente prima di tutto agli enti pubblici, perché se vogliamo fare le gare d'appalto per le coperture assicurative dei beni degli enti pubblici è inserito in automatico ed è praticamente obbligatorio anche la copertura contro il terremoto. Questo è una parte di plafond che viene assorbito proprio dalle gare degli enti pubblici. Poi li destiniamo questi plafond a quali tipi di clienti? Alle industrie e a comunque quei clienti che nell'eventualità di un terremoto dovrebbero fermare la loro attività produttiva. Normalmente sono clienti globali con i quali abbiamo dei rapporti assicurativi praticamente al 100% e ai quali dobbiamo forzatamente dare risposte. Lei consideri che per questi clienti noi, per poter dare la garanzia del terremoto, paghiamo al riassicuratore una cifra più alta di quello che incassiamo per la quota parte di terremoto che assicuriamo, ma siccome il cliente è globale dobbiamo fare una valutazione complessiva del rapporto economico che noi abbiamo. Le devo dire onestamente che faccio molta fatica a starle dietro, ma non per colpa sua naturalmente, perché il tema assicurativo è molto complicato. Non riesco a capire bene il ruolo del riassicuratore per quello che riguarda appunto la vostra attività, ma mi interessava anche molto l'aspetto della mutualità dei rischi che affrontava prima. Ma quindi mi sta dicendo che, tanto per banalizzare molto il problema ma per renderlo comprensibile ai nostri ascoltatori, io l'ho detto mille volte, sono di Ancona ed è una zona ad elevato rischio sismico e l'abbiamo vissuto anche nel nostro passato, nella mia zona. Quindi se io mi volessi assicurare, ammettendo di trovare una compagnia che mi fa una polizza contro questo rischio, devo pagare un premio molto alto, perché praticamente in Italia non tutti coloro che abitano in zone ad elevato rischio sismico si assicurano? Ma anche per coloro che abitano in zone a basso rischio sismico, cioè a dire la mutualità tra i rischi dovrebbe essere fatta tra zone ad alto rischio e zone a basso rischio. Se tutti si assicurassero, quelli che sono in zone a basso rischio pagherebbero di meno, ma contribuirebbero con il loro premio alla copertura di quelle aree dove il rischio sismico è più alto. È chiaro che, lo diceva Paparella prima quando ha parlato di antiselezione, che se i rischi vengono chiesti esclusivamente da quelle aree dove c'è un reale e forte rischio di terremoto di una certa magnitudo, se io devo coprire dei capitali lì, devo prendere i premi quantomeno che mi consentano di restituire il denaro all'assicurato. Insomma, è un tema davvero delicato e io però credo insomma che a questo punto, Corradini, non so lei che riflessione ha maturato in questi giorni guardando in continuazione il televisore e leggendo i giornali da martedì mattina, perché poi il terremoto si è consumato nella notte appunto di domenica e lunedì, non abbiamo avuto modo di leggere di questa tragedia sui giornali. È un momento dal quale bisogna partire per riportare all'attenzione generale questo problema, cercare di imprimere un po' di sensibilità in più tra tutti, tra la politica, tra la società, le istituzioni, la gente. Che cosa è possibile fare, mi chiedo, perché non è possibile che una persona che abita in certe zone, che ha tutto il diritto di abitare dove vuole, magari si vuole assicurare, vuole stare tranquillo, perde tutto e l'assicurazione lo saluta. Non è neanche giusto questo, perché questo è un problema che le assicurazioni si devono porre se vogliono lavorare in un paese che comunque il rischio sismico ce l'ha e non possono non prenderne coscienza, non trova? Ma no, ma noi ne abbiamo preso coscienza e abbiamo anche costruito delle tariffe che, le ripeto, sarebbero difficilmente approcciabili dalle persone che abitano in queste aree. Allora il concetto è questo qui. Per esempio, quanto costa? Quanto costerebbe assicurarsi migliaia adesso? Migliaia di euro. Migliaia di euro. Allora, io posso solo avere le sensazioni, come lei mi ha chiesto prima, di coloro che assistono ai programmi televisivi e che leggono la stampa di tutti i giorni. Non è che non mi sento coinvolto in questa cosa. Come impresa, come gruppo delle nostre imprese, stiamo facendo delle cose e abbiamo già fatto delle comunicazioni, però non sono le cose che risolvono il problema del rischio sismico sul nostro territorio. L'assicuratore, per definizione, essendo un privato, ha risorse limitate. L'unico, teoricamente, che ha risorse illimitate è lo Stato. Sì, che se andiamo avanti così le finisce pure lui, no. Perché quello che questo terremoto che si è accanito in un momento tragico anche dal punto di vista economico. Dal punto di vista teorico lo Stato ha risorse limitate. Bisogna trovare una giusta misura tra quello che è l'intervento del privato e l'intervento del pubblico. Non è comunque pensabile scaricare sul pubblico l'intero onere di un rischio di questo genere, perché non ci sarebbe impresa che è in grado di supportare un rischio di questo genere e non ci sarebbe riassicuratori in Europa in grado di darci garanzie di questo genere. Sentiamo Ivano Daelli di Altro Consumo, sono sicura che avrà preso appunti rispetto a quello che ha sentito fino a questo momento. E negli Stati Uniti mi segnala la mia collaboratrice Valeria Coffaro, perché mi ha preparato la trasmissione e mi ha ricordato appunto proprio come in California, dove aspettano il Big One, ma anche nelle zone dove ogni anno imperversano gli uragani, in Florida piuttosto che nel Golfo del Messico, insomma sono tutti assicurati contro questi rischi. Nel nostro paese non è possibile invece una disciplina omogenea, uniforme, insomma, sì. Daelli, lei come la vede? Ma ci sono più fattori. Allora, è chiaro, è evidente che il nostro è un paese a grosso rischio sismico. Sappiamo però benissimo dove si può correre il rischio terremoto. Qua il primo problema è che mai e poi mai sono entrate in vigore delle norme per costruzioni antisismiche, ma non solo per le nuove costruzioni, ma anche per le vecchie, la famosa messa in sicurezza degli edifici. Quindi insomma la nostra prima ascoltatrice aveva colto perfettamente, certo, il nocciolo della questione. Qua adesso il famoso piano casa, solamente in corsa è stata introdotta la norma antisismica perché è successo quello che è successo in Abruzzo. Se non fosse successo niente nessuno se ne sarebbe accorto, quindi qua il primo in causa è la politica che deve incentivare anche la messa in sicurezza dei vecchi immobili, come attraverso le detrazioni, attraverso finanziamenti a tassi agevolati, soprattutto nelle zone a rischio che, ripeto, sappiamo da decine di anni quali sono. Questo è il primo problema. Il secondo problema è vero quello che dicono, pensiamo solamente al terremoto dell'Irpinia, le cui stime sono nell'ordine di stime di ricostruzione, quindi non l'emergenza ma la ricostruzione, attorno agli 35 miliardi di euro, quindi insomma cifre veramente complesse. È anche vero però questo fattore del che diceva il dottor Papparella del fatto che si assicurano solamente quelli che sono a rischio, quindi l'antiselezione. Ma questo perché? Perché l'italiano tendenzialmente nel ramo danni va in autoassicurazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto non si fida delle compagnie assicurative, sì, comunque. Perché? Perché noi lo verifichiamo quotidianamente. Ahimè, gli assicuratori sono bravissimi a farti firmare una polizza quando vai a chiedere informazioni. Peccato che quando accada un sinistro i tempi sono dilatati quando va bene e quando va male non vedi più neanche un becco di un centesimo. E spuntano un po' sempre, insomma, interpretazioni di clausole dei contratti che, diciamo, lì nell'immediato, quando il contratto si firma, non si capiscono bene, poi però vengono con grande chiarezza interpretate, esatto, nella fase successiva. Adesso a non volte, ahimè, io tiro metaforicamente a tutto il settore assicurativo le orecchie perché... Ahimè, a volte non viene proprio spiegato un bel belin di niente, nel senso che ti vuoi assicurare? Sì, non ti preoccupare, firma qui che sei protetto da tutto. Poi uno in verità va a vedersi le condizioni di polizza. Le famose polizze di tutela, insomma, il capofamiglia. Questo su qualsiasi tipo. ma niente di male, io capisco, l'assicurazione è un ente privato, deve fare utili, eccetera, però perlomeno in fase di vendita spieghiamoli quali sono i rischi, quali sono i diritti. Qui dovremmo fare un'altra puntata da Elli, di fatto speriamo banalmente questa mattina, per quello che è possibile fare da questi microfoni, di tornare a sensibilizzare in termini generali l'attenzione, a sensibilizzare un po' tutti intorno al tema di cui parliamo questa mattina. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo e stanno denunciando, io vi invito a continuare a farlo perché su questo tema ci voglio proprio ritornare la prossima settimana. Le banche continuano a prendere commissioni sui bonifici verso i terremotati, Giuseppe lo so bene, le devo anche dire che, come sa bene lei, ieri ho fatto la trasmissione su questo. Mi hanno anche detto che ho fatto inutile polemica sull'aspetto delle commissioni sui bonifici, come se fosse inutile una polemica intorno al fatto che per fare una donazione magari di 20 euro, perché di più non ci possiamo permettere, magari per comprare una tuta, un maglione ad un bambino dell'Aquila, se ci paghiamo insomma 3 euro di bonifico, sembra il fatto di rilevarlo una polemica inutile. Prendiamone atto, di fatto io questo è un aspetto che proprio non accetto, pertanto continuate a raccontarcelo, perché se poi magari all'indirizzo di Salvadanaio, mi date anche il nome della banca che fa tutto questo, visto che li ospitiamo sempre tante volte, giro la polemica inutile, come loro la definiscono, alle rispettive magari gli uffici stampa con i quali sono molto in contatto, e vediamo se questa pratica molto spiacevole di questi giorni si può eliminare. Intanto torniamo alle nostre assicurazioni contro il rischio sismico. Giovanni da Roma, lei ci ha provato, non ci è riuscito però, no? Vi racconto la differenza tra la teoria e la pratica. Allora, io nel 2005 avevo comprato il mio primo appartamento e senza motivi particolari mi ero deciso ad assicurarlo anche contro il rischio terremoti. Bene, da una ricerca da me fatta all'epoca avevo trovato due compagnie di assicurazioni che assicuravano questo rischio. Le posso nominare oppure evito? Proviamo, Giovanni. AXA e Toro. No, tra l'altro, sì, guardi, Toro li abbiamo chiamati questa mattina, non sono potuti intervenire, e di AXA so che hanno insomma una buona fetta di mercato per quello che riguarda questo settore, sì. Sì, sì, e adesso ti dico in pratica cosa è successo. Per prima ho contattato, perché mi era più vicina, l'agenzia di zona di AXA. Sì. Bene, mi hanno detto che non l'avrei potuto fare se non stipulavo comunque una polizza globale sull'appartamento. Sì. Siccome avevo già la globale fabbricata del condominio e quella che mi aveva imposto la banca per la stipula del mutuo, il triplone più che il doppione, avevo deciso di non farlo. Vado da Toro, il premio che mi chiedevano era basso, e dico pure questo, era di 60-70 euro per 100.000 euro di assicurato, però c'erano anche qui, sono venuti fuori due problemi. Allora, il primo problema è stato che la cifra massima di cui mi assicuravano il rimborso era proprio 100.000 euro. Sì. Sul valore della e credo che sia anche l'ordine delle cifre intorno a cui viaggia AXA, lo racconta stamattina Riccardo Sabatini, offrono una copertura parziale fino al 50% del danno subito entro un plafond di 100.000 euro, poi la dinamica magari dobbiamo anche capirla un po' meglio. Sì, Giovanni, concluda pure, grazie. Sì, mi scusi, io sì, AXA non ho approfondito, per cui, però vede che i dati tornano. Però anche qui il problema venne nel momento in cui l'assicuratore mi fece chiaramente capire che era assolutamente disinteressato a stipularmi questo tipo di polizza, e mi invitava anche qui alla fine, di fatto, in maniera anche gentile per carità, ma con insistenza, a stipulare un'assicurazione globale sul fabbricato. Beh, allora io a quel punto l'assicurazione non l'ho stipulata. Giovanni, la ringrazio, e io giro subito il suo caso a Francesco Paparella dell'AIBA. La stupisce quello che è accaduto a Giovanni, da quello che ci ha raccontato all'inizio trasmissione? Probabilmente no. No, assolutamente no. Anzi, il problema è proprio quello che citavo all'inizio, e cioè che se il signor Giovanni non avesse dovuto sottoscrivere una polizza incendio per il mutuo come richiesto dalla sua banca, avrebbe avuto tutto l'interesse a fare una copertura globale completa, quindi anche con il rischio del terremoto. Ed è per questo che noi dicevamo, leghiamo queste coperture degli eventi catastrofali, che da sole non sono acquistabili, perché effettivamente è vero, io non posso comprare, salvo eccezioni, la polizza per il rischio del terremoto e dell'alluvione. Devo comprare una copertura globale, quindi incendio, con l'estensione a questi eventi. Se la banca nel momento che mi dà il mutuo, cioè nel momento che impiega dei soldi che ha raccolto sul mercato, quindi impiega soldi della propria clientela, a tutela di questo impiego chiedesse anche una copertura per gli eventi catastrofali, infatti, il signor Giovanni se la sarebbe già trovata, probabilmente anche ad un costo, adesso in questo caso era modesto, ma comunque ad un costo molto più basso, perché una volta fatta su N operazioni questa copertura riduce il proprio costo e avrebbe avuto la possibilità di stare tranquillo e comprare un massimale più adeguato, perché 100.000 euro sul valore di un appartamento molto probabilmente, a meno che non si tratti di un garage, è difficile che siano diciamo compensativi di un danno di grande portata. Guardi Paparella, io vorrei sentire adesso Severino da Cagliari, perché è un rappresentante come voi del settore assicurativo. Ci sono in tanti che ci stanno telefonando, vorrebbero intervenire per presentare l'offerta commerciale di casa propria. Severino, io però le chiedo, prima di raccontarci quello che vende lei, in realtà un commento rispetto a quello che abbiamo sentito prima dell'ascoltatore da Roma. Io capisco che siate tutti quanti molto bravi in teoria, poi nella pratica però non vi interessa prendere un cliente che vi chiede un prodotto di questo tipo. Buongiorno. Buongiorno. No, intanto vorrei dire, a proposito del cliente, dell'ascoltatore che ha chiamato prima da Roma, che lì lui si è trovato costretto ad accettare dei prodotti assicurativi forniti dalla sua banca che non erano adeguati a quelle che erano le sue esigenze. Sì, sì, sì, non è stato esattamente così. Poi lui è andato anche da due compagnie che in teoria vendono esplicitamente questi prodotti, ma gli è stato fatto capire che non era di loro interesse, sì. Quindi insomma lei mi sta dicendo quindi che l'ascoltatore ha impostato la trattativa in maniera sbagliata? Probabilmente sì e no, nel senso che sicuramente lui è stato più o meno obbligato a stipulare la polizza che la banca gli ha proposto. Sarebbe stato molto meglio nel caso suo che lui potesse scegliere una polizza di suo gradimento, come magari quella che gli avevano proposto dalla Toro o dall'AXA, e che vincolasse quella polizza, che sicuramente era più completa, a garanzia del mutuo che la banca gli chiedeva, piuttosto che stipulare la polizza che la banca gli ha proposto, che è risultata non completa rispetto al... Ma questo sicuramente, Severino, però noi non è che dobbiamo ogni volta andare a scuola di trattativa con la banca o trattativa con la compagnia di assicurazione. Se una persona imposta in maniera sbagliata la trattativa e magari non ha una chiara percezione delle proprie esigenze, sta anche all'assicuratore, in maniera intelligente, di guarda, piuttosto che fare questo, fai quest'altro, non trova? Certamente, sì. Sì, sì. Detto questo, lei insomma voleva anche aggiungere qualcos'altro, credo. No? Sì, come dicevo prima alle sue collaboratrici, so che ci sono compagnie che hanno anche la garanzia per il terremoto. Non so se abbiano dei massimali, dei sottomassimali, come diceva prima l'ascoltatore, cioè che risarciscono magari fino a una determinata cifra, ma comunque voglio dire, visto quello che è il mercato, sarebbe sempre meglio avere una garanzia che comunque mi risarcisce 100.000 euro, anche se sono un valore più basso sicuramente rispetto al fabbricato, piuttosto che non avere niente. Ci sono compagnie che danno la garanzia del terremoto inclusa nella garanzia incendio e scoppio e non come garanzia accessoria, e quindi i costi sono abbastanza contenuti, perché vengono comunque suddivisi poi tra tutti quei clienti di quella compagnia che stipulano una polizza di incendio per il fabbricato, compresi quelli come i miei clienti qua in Sardegna, che ovviamente fortunatamente non abbiamo un rischio terremoto, ma nella loro polizza c'è comunque anche quella garanzia. Magari, Severino, insomma, se lei abitasse ad Ancona, che è la mia città di origine, oppure in una zona del centro Italia un po' più a rischio sismico, forse il suo ragionamento sarebbe ben diverso, non lo so, lo ipotizzo. Ci mancano pochi minuti di tempo. Federico Corradini, Unipol Gruppo Finanziario, mi aiuta lei a tirare le conclusioni di questa puntata, poi magari concedo anche una battuta finale a Ivano Daelli di Altro Consumo. Adesso anche un po' l'impostazione sbagliata di trattativa da parte nostra, forse anche l'assicuratore che deve fare un po' il suo mestiere, però non trova sì, lei? Sì, l'assicuratore senz'altro deve fare il suo mestiere, però il suo mestiere deve rientrare all'interno di una logica economico-finanziaria che è quella della sopravvivenza dell'impresa. Volevo, non polemicamente, fare un ragionamento su quanto detto Ivano Daelli prima. Sì. Cioè, voglio dire, è affascinante il concetto che l'assicuratore scrive in piccolo e non dice mai le cose, però sicuramente a un esponente di Altro Consumo non sarà sfuggito che il mercato assicurativo da un anno è sottoposto, per ogni rischio che assume, a sottoporre al cliente un formulario per garantirgli l'adeguatezza dei rischi che sta comprando. E questo è un formulario di tipo obbligatorio. Quindi vorrei... adesso mi sembra eccessivo spezzare una lancia nei confronti degli assicuratori, visto che faccio parte di questo mondo qua, però il regolatore impone alle compagnie di assicurazione di essere chiare rispetto alle cose che loro vendono. Poi ci saranno compagnie che seguono più o meno pedissequamente quelle che sono le indicazioni del regolatore, ma infatti, e quindi dell'organo di controllo, però queste realtà esistono. Lo so, sa com'è Corradini, è un po' come le banche che a questo microfono mi vengono a dire stiamo andando molto a sostenere in questo momento i terremotati in Abruzzo, compriamo i container e poi fanno per un bonifico, fanno pagare 3 euro di commissione e ancora mi continuano ad arrivare messaggi. È lì il motivo per cui poi noi non ci fidiamo e così poi magari siamo anche a volte di qualunquisti, un po' con le associazioni dei consumatori, però di fatto poi nella pratica io so benissimo che siete sottoposti in questo momento ad una grande vigilanza, c'è un organismo, l'ISVAP, che vi sanziona anche pesantemente quando non vi comportate correttamente, però di fatto nella pratica quotidiana c'è sempre quell'eccezione per la quale dobbiamo un po' demolire quella che è l'immagine che invece volete dare, che è di lavoratori seri, e sono sicura che siete così. Corradini, mi scusi. Stiamo parlando di eccezione, ma al di là di questo voglio dire, il problema del terremoto non è risolvibile da compagnie private, ci deve essere un tavolo comune da parte dello Stato e da parte delle compagnie, non trascurando il ruolo dei riassicuratori, perché sono quelli che impegnano a loro volta capitali sulle coperture che le compagnie di assicurazione a loro propongono. Quindi il tavolo deve essere un tavolo a tre, dove si stabilisce chiaramente qual è il limite economico nel quale ogni singolo operatore può essere impegnato. In questo modo si riescono a fare le cose fatte bene, soprattutto quando però questi rischi non siano venduti solo ed esclusivamente nelle zone ad altissimo rischio, perché allora non diventa quasi più un rischio ma diventa una certezza. Abbiamo capito perfettamente, insomma, il tema da cui siamo partiti e quello con il quale abbiamo concluso. Speriamo che questo tavolo a tre che lei auspica, Corradini, si insedi al più presto, forse non c'è tempo nell'immediato ma magari nel medio periodo ce ne sarà, si deve trovare assolutamente. Grazie a Francesco Paparelli, Ivano Daelli e Federico Corradini per essere stati con noi. Vi devo salutare perché sono in ritardo, buona giornata.